Ciao e salute a tutte e tutti. Comincia la nuova puntata di Uru, suoni, musica e notizie dall'Africa. Prima di cominciare vi do subito i nostri social, dove il sito dove potete ascoltare la trasmissione streaming e dopo scaricare i podcast, e cioè wombat.noblogs.org. Poi da Twitter è twitter.com/wombatfi, Facebook facebook.com/radio-wombat-firenze e la mail per comunicare con noi postawombat@insiberia.net. Sesta puntata di Uru, appunto, che si svilupperà esclusivamente attorno alla musica jazz. Il jazz in Sudafrica molto molto suonato, molto conosciuto, e molto suonato, molto conosciuto in particolare in due regioni, Sudafrica e Etiopia. Ma mentre in Etiopia si sviluppa la scena musicale jazzistica, si sviluppa quasi esclusivamente nella capitale, Addis Abeba, in Sudafrica invece il jazz ha una dimensione e una un'ampiezza molto molto più grande. Le città principali in cui è nota la scena jazzistica sono Città del Capo e Johannesburg. A cui va aggiunto, anche se in una forma minore, Durban. E non è un caso che la musica jazz sudafricana sia tra le più importanti nel panorama addirittura mondiale. Non è un caso perché nasce nelle township fin dagli anni 20. Ogni anno e tuttora nelle due principali città sudafricane si rinnovano gli appuntamenti al ritmo di jazz, con il Cape Town Jazz Festival e il Joy of Jazz Festival a Johannesburg, che non a caso sono due degli eventi più importanti nel panorama jazzistico internazionale. La più conosciuta, la cantante più conosciuta, conosciuta anche per altri generi, conosciuta universalmente, è Miriam Makeba, ma la musica jazz che è, ai suoi inizi ha interpretato molti brani jazz e soul, ma la musica jazz in Sudafrica ha una lunga tradizione e nasce dal Marabi, uno stile musicale nato nelle township nere di Johannesburg appunto negli anni 20, le cui sonorità sono state in seguito contaminate dalle forme internazionali di jazz. Una nuova generazione musicisti ha poi dato vita a composizioni sue, composizioni originali, con ancora tracce di Marabi e la quella, che questi due generi musicali sono alla base della musica sudafricana. Uno spartiacque della scena musicale jazzistica sudafricana è stato nel marzo 1960, dove in seguito al massacro di Sharpeville, dove la polizia nazista, si può dire, la polizia dell'apartheid uccise svariate decine di studenti che si ribellavano alla suddivisione per razzi all'interno della scuola, la censura cominciò a colpire non soltanto gli aspetti più prettamente politici, quindi l'African National Congress, il Pan-African Congress, cioè sostanzialmente le organizzazioni che si battevano per la libertà dei neri, dei nativi, ma la censura si abbatté anche su tutte le forme culturali che in qualche modo si riconducevano alla cultura nera, alla cultura africana. Da quel momento, proprio a causa di questa censura, molti musicisti jazz sudafricani cominciarono ad andarsene dall'Africa, iniziò una sorta di diaspora, ma questa diaspora, se da un lato fu brutta per quanto riguardava la scena musicale jazzistica direttamente in Sudafrica, portò invece dall'altro lato portò i musicisti sudafricani a incontrare altri musicisti, specialmente negli Stati Uniti, di Dizzy Gillespie in particolar modo, quindi ad essere più conosciuti, e quindi ad essere più conosciuti anche le rivendicazioni del popolo sudafricano, nero sudafricano. Quindi la musica e il jazz in Sudafrica è importante sia dal punto di vista culturale, ma anche un ambasciatore musicale delle rivendicazioni dei diritti della popolazione nera. Il primo pezzo che vi facciamo ascoltare è proprio di un musicista di Johannesburg, si chiama Sifo Mabuse e il pezzo è Taba Bosu. Thank you. volevamo far sapere di una cosa, cioè che la radio, Radio Wombat, cerca, gli manca un logo e quindi ha fatto un contest, per un concorso di idee per la creazione di questo logo. Questo logo sarà destinato ad essere utilizzato come segno identificativo di Radio Wombat su tutti gli strumenti di comunicazione, cartacea e no. Le caratteristiche e tutto le potete e le modalità di partecipazione le potete leggere sul sito, ve le fa brevemente, ve lo dico, cioè che il logo deve essere inedito, originale, fatto espressamente per il concorso, deve essere... deve essere suscettibile di riduzione o ingrandimento, e si può partecipare tutti possono partecipare sia come singoli o come gruppo, in ogni caso come unico progetto, che lo faccia una persona o che lo faccia un gruppo. I progetti dovranno essere inviati entro e non oltre la mezzanotte di domenica 22 febbraio 2017 al nostro indirizzo email, cioè postawombat@insiberia.net. Se volete un po' leggervi tutta la pagina dove ci sono anche altre cose, andate sul sito wombat.noblogs.org e leggete appunto la pagina del sito. Naturalmente il logo non dovrà comunque attenersi a quelle che sono le caratteristiche di Radio Wombat, cioè l'antifascismo, l'antisessismo, l'organizzazione dal basso, insomma tutto quello che contraddistingue una radio di movimento sostanzialmente. E quindi appunto, ripeto, la data entro cui si possono spedire a postawombat@insiberia.net i progetti, e cioè domenica 22 febbraio 2017. Prossimo pezzo, siamo sempre appunto su Uru, la trasmissione di musica, suoni e anche notizie dall'Africa. Il prossimo pezzo è di Abdullah Ibrahim, uno dei grandi della scena jazz sudafricana, in questo caso di Città del Capo. E Abdullah Ibrahim, che inizialmente, anzi, si chiamava, il suo nome d'arte era Dollar Brand, e successivamente, dopo la conversione all'Islam, appunto, ha assunto il nome di Abdullah Ibrahim nel 1968. Appunto, dicevamo precedentemente che è di Città del Capo, è nata a Città del Capo nel 1934 e cresce fin dall'infanzia ascoltando una musica tradizionale africana, gospel, musica sacra e anche jazz, perché appunto il jazz è proprio uno degli elementi diciamo quasi tradizionali, ecco, della musica sudafricana. E inizia fin da piccolissimo a suonare il piano. Successivamente, già a 15 anni, comincia a suonare in una forma professionistica a tempo pieno. E negli anni 60, a causa della grave crisi civile sudafricana, quella che menzionavamo precedentemente, appunto in seguito al massacro di Sharpeville, si trasferisce la moglie prima in Svizzera e poi a New York. E appunto a New York inizia definitivamente la sua carriera jazzistica, suonando con le più grandi band di jazz statunitense. E senza mai appunto dimenticare le proprie radici, tant'è che nel 1999, dopo essere già ritornato appena finito l'apartheid in Sudafrica, nel 1999 fonda una scuola di musica a Città del Capo e attualmente continua a insegnare a questa scuola di musica, oltre chiaramente a suonare e a comporre. Il pezzo che vi facciamo ascoltare è African Marketplace, mercato africano, che ancora una volta già nel titolo, diciamo, la dice lunga di quelle sono le radici e di come vuole rimanere ancorato alle radici Abdullah Ibrahim. volevamo parlare di un progetto che hanno fatto no profit, che hanno fatto un fotografo e uno scrittore, che si chiama Everyday Africa, che sono foto appunto di vita africane. Pensate, l'account Instagram ha oggi più di 300.000 follower. Il progetto è nato su Tumblr, che i due, cioè, che si chiamano Peter Di Campo, il fotografo, e Austin Merrill, lo scrittore, praticamente usavano per condividere le foto dei loro reportage nel continente africano. In pochi paesi l'iniziativa ha suscitato talmente tanto interesse che è stata portata anche su Instagram, dove si sono aggiunti altri fotografi che vivono e lavorano in Africa, anche loro per organizzazioni no profit. L'obiettivo di questo progetto, fin dall'inizio, è di andare oltre gli stereotipi che falsano la rappresentazione di un paese. E cioè, loro vogliono che l'idea di Africa non sia legata solo a guerre, fame, malattie, ma che si può vedere attraverso le loro foto che dall'Africa possono arrivare non solo cattive notizie, ma loro cercano di cogliere la normalità anche nei momenti di crisi. Il successo di questo progetto ha fatto sì che le foto siano state raccolte in libri, esposte nei festival e nelle gallerie, tutto per raccolta fondi, eccetera. Infatti Everyday Africa è impegnata andando nelle scuole e creando un ponte con i mezzi di informazione, eccetera, e l'Africa. Guardatele, perché le foto sono veramente bellissime, ce ne sono tante. Si chiama Everyday Africa su Twitter o Instagram. E appunto in Everyday Africa c'è anche una bellissima foto di Abdullah Ibrahim, che sta, mentre sta suonando il piano, cioè l'autore del pezzo che abbiamo fatto ascoltare precedentemente. E appunto, dopo i due primi brani, che erano di suonati da jazzisti sudafricani, i prossimi tre brani sono di jazzisti etiopi. In particolare il prossimo è di Mulata Stad, che è un po' l'innovatore e l'esportatore, diciamo, dell'Ethio Jazz. Appunto questa scena jazzistica che si svolge quasi esclusivamente ad Addis Abeba, ma che ha raccolto intorno diciamo ai musicisti principali tutta una serie di soggetti, di altri musicisti, e sostanzialmente l'Addis Swing viene tuttora portato avanti in questa enorme città di quasi 10 milioni di abitanti, che è Addis Abeba. Una dichiarazione di Mulato Astad che la dice lunga appunto di come lui intende il jazz, cioè: la maggior parte della nostra musica etiope si basa su 5 note, le pentatoniche. Quello che ho fatto è stato fondere 5 toni con 12 toni. Per molti anni ho avuto modo di sperimentare, e più lo faccio e più diventa complesso. In Etiopia, prima ancora di Mulato Astad, che uno dei primi grandi musicisti a gettare le basi per l'Ethio Jazz fu Nerses Nalbandian, che curiosamente proviene da una famiglia che fuggì dal genocidio armeno ad opera dei turchi e si stabilì in Etiopia, dove Nalbandi sarebbe successivamente diventato leader dell'Ethio Jazz degli anni 50. Mulata Stark invece, da molti accreditato come il più grande innovatore ed esportatore appunto del jazz etiopico, nasce nel 1943 a Jimma in Etiopia, peregrina un po' per il mondo, prima in Galles, poi a Boston, facendo anche i mestieri più svariati. In Galles studia ingegneria, poi comincia a interessarsi alla musica, va a New York, a Berkeley, a Boston, scusate, per studiare jazz. E lì a Statke portò la fusione tra la musica popolare etiope tradizionale e jazz americano a un livello ancora superiore, livello che di quel jazz, del jazz veniva suonato in Etiopia. Nel sud ci sono tribù chiamate Derascia, dice ancora Astatke. Sono circondate da persone che suonano musica a cinque toni, ma hanno creato, appunto, come diceva precedente, come già veniva riportato nel brano e abbiamo detto precedentemente, ma hanno creato una scala diminuita di 12 toni. Le scale diminuite sono molto importanti nella musica jazz, in particolare per l'improvvisazione. Sappiamo che Charlie Parker si avvicinò alle scale diminuite, così come Claude Debussy e Bach. Ma nella mia mente la questione è sempre questa: chi arrivò prima alla scala? Debussy, Bach, Charlie Parker o le tribù Derascia? E alla fine degli anni 60 Statke decide di tornare in Etiopia per continuare a portare avanti la scena jazzistica etiope. Il suo folk jazz, basato sui bebop, era considerato non ortodosso nei primi tempi, ma poi successivamente è sempre stato più conosciuto. E quindi inizia la Swing in Addis. E appunto la storia è molto lunga, la riprendiamo successivamente. Questo è il primo brano di jazz etiope, è appunto di Mulato Astatke, e si intitola Gamo. Sentire, no, no, honey, no. Rispetto all'Etiopia, proprio perché Uhuru non è soltanto storia e musica, ma anche notizie, dobbiamo registrare, dobbiamo dire, anzi è importante dire, che nel mese scorso centinaia di migliaia di persone sono scese in strada per manifestare contro il governo etiope. È stato il culmine di un'ondata di proteste, era già cominciata più di un anno fa, più o meno nel novembre 2015, in Amara e Oromia, due delle regioni più popolate del paese, di cui appunto, sono abitate dai rispettivi gruppi etnici, gli Amara e gli Oromo. Il governo ha accusato i manifestanti di essere, come al solito, agenti di forze straniere e ha schierato l'esercito. Gli scioperi sono però continuati. Gli Oromo e gli Amara uniti denunciano le montature della propaganda sulle divisioni etniche. Gli Oromo e gli Amara hanno organizzato manifestazioni insieme, mentre il governo, dopo aver lavorato per far entrare nell'immaginario paese le divisioni etniche, comincia un po' a essere in crisi, comincia a tremare, proprio perché queste proteste vanno direttamente a intaccare, a frenare la crescita dell'economia etiope, che è aumentata del 10% dal 2004 al 2009. Si tratta insomma dell'economia africana in più rapida crescita negli ultimi anni, che non è dipendente dal petrolio, ma chiaramente questa crescita economica c'è chi ci guadagna, come al solito pochi, c'è chi ci perde, come al solito tanti. E nonostante la rapida crescita degli ultimi anni, il prodotto interno lordo pro capite è tra i più bassi del mondo. L'agricoltura è ancora praticata con metodi tradizionali e sugli altipiani si coltiva il caffè, il più importante prodotto di esportazione, ancora come nelle forme tradizionali 20-30 anni fa. Quindi da qui appunto, da questa crescita economica, di cui però ne hanno beneficiato soltanto in pochi, da qui appunto le rivolte delle popolazioni Amara e Oromo. C'è da tenere presente che gli Amara e Oromo messi insieme sono l'80% della popolazione etiope. E chiaramente tra chi ci guadagna da questo stato di cose in Etiopia sono anche alcune aziende italiane. Una in particolare, la Salini in Pregilo, che ha costruito due dighe sul fiume Omo. La cosa particolare, la cosa importante è che questa regione appunto in cui sono state costruite le dighe è praticamente interdetta ai giornalisti, agli osservatori internazionali, a chi denuncia appunto l'espropriazione dei terreni e anche della cultura di tutte le persone che abitavano nella valle oppure nelle immediate vicinanze della valle in cui è stata costruita questa diga. E quindi appunto è da seguire questa vicenda, proprio perché si tratta in questo caso di rivendicazioni etniche, non tribali, ma proprio direttamente rivendicazioni economiche e dei diritti per le persone. Adesso invece riprendiamo il discorso che eravamo arrivati prima, e cioè che alla fine degli anni 60 Astacche decise di ritornare in Etiopia per coltivare l'etio jazz nella sua patria. In un primo momento il suo folk jazz basato sul vibrafono era considerato non ortodosso. Tuttavia, nel giro di qualche anno ha trasformato la capitale, che ha iniziato ad essere conosciuta come Swinging Addis. Il periodo a cavallo tra la fine degli anni 60 e i primi anni 70 è conosciuto come il momento d'oro di Addis Abeba. Innumerevoli orchestre, jazz ed ensemble prosperavano in città, guidate dalle innovazioni di Mulatu Astacche e dallo straordinario sassofonista Getachew Mekuria. Addis Abeba era al culmine della sua espressione musicale nel 73, quando la leggenda del jazz americano Duke Ellington venne in città per suonare insieme a Mulatu Astacche. Gran parte della scena poi crollò in seguito a sconvolgimenti all'interno del paese. Però dopo gli anni 90 vide una rinascita etiope, la democrazia divenne rapidamente una casa fiorente di creatività musicale. Il jazz etiope raggiunse un nuovo pubblico planetario e attraverso le emissioni di CD che comprendevano la serie Ethiopic diventarono famosi. A tal punto che nel film Broken Flowers di Jim Jarmusch la colonna sonora è composta da Astacche, che ha portato l'etio jazz verso un pubblico ancora più ampio. Adesso invece sentiremo Akale Vube di Alekn Taye. Thank you. Era Akale Wube, uno degli esempi appunto del jazz etiope e della sua bellezza. Diamo un attimo gli appuntamenti, andiamo abbastanza in là perché adesso a inizio gennaio non c'è niente, quindi per la prima giornata è il 13 di gennaio, un venerdì. E ci sarà alla Polveriera un dibattito, un cortocircuito, mentre al CSA Next Emerson Reggae Dub, una DJ set con Joe Smoher. Il 19 gennaio, giovedì, ci sarà alla Polveriera un aperitivo No Borders e all'Emerson invece nuovi rumori con svariati gruppi, tra cui Grand Terminal. Per adesso lasciamo qui, tanto abbiamo tempo per dirne altri. Il prossimo pezzo è di una band jazzistica etiope. Il pezzo si intitola Origin of Man proprio perché è considerato all'Etiopia, diciamo, la madre, il posto da cui si è originato l'uomo. In particolare appunto a Addis Abeba c'è il museo di paleontologia, di archeologia, in cui è esposto lo scheletro di quella è la nostra progenitrice di tutti, e che appunto è una donna, Lucy, è un affarino di una signorina di 1,20 m, in cui noi l'abbiamo anche vista, insomma, è sotto una teca, tutte le ossa, tutta tenuta bene, la temperatura ambiente. È strano sapere che si deriva tutti da questa signorina etiope di migliaia e migliaia di anni fa. Appunto, il prossimo pezzo si intitola Origin of Man, sono la Budos Band, un'altra appunto delle band che infiammano, che animano la scena jazz di Addis Abeba. questa era The Buddha's Band con Origin of Man, e adesso ritorniamo in Sudafrica e riprendiamo il discorso che abbiamo fatto all'inizio, e che è il jazz sudafricano è nato da due musiche sudafricane, e cioè una che si chiama Kwela, che è nata negli anni 40, che era profondamente radicato nella tradizione musicale, in quanto nasce dall'incontro tra il marabi, un genere musicale anch'esso sudafricano, suonato fin dagli anni 20 nel secolo scorso, specialmente nelle township, nel periodo contro l'apartheid, appunto tra le persone di colore. Lo strumento della quela con cui si aprivano le danze era il tin whistle o penny whistle, e cioè un flauto piccolo ed economico fatto di legno o di latta, che si portava in giro facilmente e che poteva essere suonato ovunque. A questo strumento poi, quando il quela iniziò ad essere suonato in concerti e spettacoli, si affiancarono anche altri strumenti come la chitarra, il basso e la batteria. Dagli anni 50 del secolo scorso il quela iniziò anche a uscire da confini sudafricani per farsi conoscere in tutto il mondo, soprattutto in Europa e in USA. Il pezzo che andiamo a sentire adesso, infatti, si chiama Marabi Kwela, cioè il nome di questi due suoni, e il gruppo è Telani Ajib Fitch Future West Nicosi. questo era appunto Telania Haib insieme a Weston Cosey. Il titolo del brano era Marabi Quella, che è appunto uno degli esempi più noti, diciamo, della contaminazione tra i Marabi e la Quella, tant'è che il brano appunto prende nome da questi due generi di musica sudafricana, e che appunto con un ulteriore sviluppo si sono evoluti nel jazz e nello swing. E appunto erano alla base anche delle tipiche danze, diciamo, sudafricane del periodo, e non a caso quella negli anni 40 veniva ballato e suonato tra le persone di colore, ed era considerata una musica contro l'apartheid. Questo era, siamo sempre su Radio Wombat, era Uhuru, la trasmissione di suoni, musica e notizie dal continente africano. Vi ripetiamo gli account social di Radio Wombat, e cioè twitter.com/radiowombatfi, account Facebook è facebook.com/radio-wombat-firenze, l'indirizzo di posta elettronica è postawombat@inseveria.net, a cui potrete mandare anche i manufatti, i disegni del logo del contest di cui abbiamo parlato precedentemente. Vi ricordiamo che questa trasmissione Uhuru riprenderà tra 15 giorni, il prossimo venerdì 6, è un giorno festivo e anche un giorno di compleanno, almeno per me, e quindi ci risentiremo venerdì 13. Ricordiamo che a CSX Emerson ci sarà una serata reggae con Joker Smoker, una DJ set sostanzialmente, e anche Uhuru prepararci alla serata farà una trasmissione, ci sarà una trasmissione di reggae africano e sull'Africa. Buonasera a tutti, anzi ciao a tutti e tutte, e anche un buon fine anno e miglior principio, un buon 2017.